un'altra Europa. 7 minuti dopo le 12, buon sabato da Federico Taddia. Eccoci qua in diretta con l'altra Europa, come sempre, come ogni settimana, per raccontare l'Europa delle storie, delle persone, delle opportunità e delle possibilità. Radio24.it, il nostro sito, da lì potrete trovare tutti i contributi extra, da lì potrete poi riascoltare e scaricare il podcast, un'ora intera insieme. L'altra Europa è radio24.it, se volete contattarci, se volete segnalarci iniziative, progetti, eventi degni di nota. Lo sapete, non nascondiamo certo le criticità di questa Europa, Europa che viene narrata giorno per giorno da Radio 24. Noi il sabato cerchiamo di trovare anche altri punti di vista. Tante voci, oggi partiamo correndo. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. E corriamo insieme a Leonardo Cenci, maratoneta, ideatore del progetto, di un progetto molto particolare, sono gli Oncology Games, progetto finanziato dal programma europeo Erasmus Plus. Lui è presidente di Avanti Tutta Onlus. Ciao Leonardo, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico, buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, ti conosciamo per le tue tante iniziative e anche per le tue tante maratone. Cosa hai ideato? Cosa la maratona più importante sicuramente è stata quella che sto portando avanti ogni giorno, che è la maratona della vita, diciamo. Certo. Ecco. Come stai intanto? Allora, clinicamente non in modo eccellente, perché comunque il mio ospite si è ricominciato a muovere e a ricamminare, quindi adesso devo al più presto rimetterlo in gamba e cominciare gli allenamenti per ricorrere anche quest'anno alla maratona di New York. Allora Leonardo, e oltre a questa tua corsa, corsa con la vita, corsa con le tue iniziative, sì, con la tua carica, energia che deve essere veramente contagiosa, appunto ti sei inventato anche queste Olimpiadi, che vogliono sicuramente essere un qualcosa che vada al di là della mera prestazione sportiva. Di cosa si tratta? Beh, è un progetto veramente incredibile. Io ho sempre creduto dal primo momento che ho cominciato a conoscere il reparto di oncologia per dare la possibilità e la... Aspetta Leonardo, scusa che abbiamo la linea molto disturbata, metti giù, stai fermo, ti richiamiamo immediatamente, che cerchiamo di ripristinare la linea. E tucep.org intanto è l'ente che coordina questo progetto che vede coinvolte 6 nazioni, Italia, Bulgaria, Grecia, Spagna, Regno Unito, Polonia. L'evento sportivo è previsto per il settembre 2018 a Roma, non solo gare quindi per... Che vedono in pista, che vedono in competizione atleti ammalati di tumore, ma anche tutta una serie di workshop, discussioni, approfondimenti per capire proprio come si può vivere, come si può superare la malattia. Leonardo, vediamo un po' se la linea è migliorata. Eccolo lì. Sono qui al mare e adesso la linea qui è quella che è. Allora, adesso è molto meglio, grazie. Ok, bene. E niente, quindi dicevo che ho pensato bene di offrire una dignità a un malato oncologico, pensandomi a, visto che ecco, tra pochi anni, diciamo, il cancro sarà sempre una malattia più diffusa e più fortunatamente cronicizzabile, mi sono immaginato che dopo le Olimpiadi, a seguito delle Paralimpiadi, diciamo, un domani ci siano le Oncolimpiadi. Da questa mia idea ho creato un progetto europeo in cui abbiamo coinvolto sei paesi al momento per far partire a settembre del 2018 l'anno zero. È stata finanziata, è stato fondato il progetto, è intervenuto il CONI credendo in maniera massiccia di questa mia idea, e adesso è il mio sogno che si realizza, e sono certo che questa cosa sarà veramente una svolta epocale, veramente far vedere il cancro con una prospettiva differente, ecco. E abbiamo detto tucep.org, che è il sito, non è proprio ancora il sito dell'iniziativa, però se non erro il Tucep è l'ente che coordina il progetto, giusto? Bravo, esatto, colui che coordina il progetto. Sei nazioni coinvolte, dicevamo, quindi l'Europa ha accolto questa tua idea proprio perché è un'idea che non conosce i confini e va al di là dei limiti. Esatto, sì, diciamo che vede i limiti diciamo come orizzonti, quindi questa cosa abbiamo trovato veramente partner che hanno preso la palla al balzo e hanno subito sposato questa nostra proposta di idea, e adesso ecco siamo sul campo e abbiamo già fatto una call a Perugia con i sei paesi partner, e poi da qui adesso fino a settembre 2018, che appunto partirà la prima edizione, sarà un duro lavoro, ma con tanta passione e impegno riusciremo veramente a comunicare che il cancro è una malattia della quale non bisogna avere paura. E seguiremo questo progetto in tutti i suoi sviluppi. Grazie Leonardo, in bocca al lupo. Bocca al lupo per la tua corsa personale e anche buona vacanza, visto che sei al mare. Grazie Federico, grazie. Buon weekend a tutti. Ciao, buon sabato, ciao ciao. Noi ci fermiamo, un Europost-it, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Concorso Europe in My Region. Sei a conoscenza di progetti, strutture o idee realizzate nella tua regione grazie ai fondi dell'Unione Europea? Allora scatta una foto e caricala sull'applicazione Europe in My Region, che troverai sulla pagina Facebook della European Commission, e partecipa al concorso L'Europa nella mia regione. Le foto concorrenti saranno giudicate inizialmente dal pubblico di Facebook e nella fase finale da una giuria internazionale di professionisti. I tre vincitori avranno diritto a un laboratorio di fotografia e un viaggio a Bruxelles durante la Settimana Europea delle Città e delle Regioni. Cerca il regolamento di Europe in My Region su facebook.com/European Commission. Hai tempo fino al 27 agosto. L'altra Europa. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. In this day and age, it's so easy to stress. There's people like strange and you can never second guess. Dieci anni di attività, 500 professionisti di tutta Europa formati grazie a un pool di 84 insegnanti, 5 diversi corsi di specializzazione, decine di seminari tecnici e convegni tematici. Sono alcuni dei numeri di questi 10 anni di attività del Centro Europeo per la Conservazione del Patrimonio Architettonico, da quando la sede è stata trasferita a Tiene, di questo centro aperto di fatto nel 1977. Chi l'ha voluto, di cosa si tratta e che cos'è appunto il Centro Europeo per i Mestieri, lo chiediamo a Giovanni Giuliari, che è direttore del centro stesso. Buongiorno Giuliari, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Cosa succede dentro a Villa Fabris? A Villa Fabris succede che una comunità, un territorio si fa carico di pensare anche al futuro del nostro patrimonio. Il centro europeo, appunto, come diceva lei, nasce 40 anni fa a Venezia, poi da 10 anni qui a Atene, presso la Villa Fabris, è una villa del Settecento, dove abbiamo laboratori che avviano e specializzano i nostri restauratori europei su diversi temi. Sono giovani, hanno una media di 30 anni, che si riuniscono almeno una volta all'anno con un corso che è un vero e proprio campus, dove si scambiano le esperienze delle varie specializzazioni che il corso fa. Infatti lavoriamo sui temi della conservazione della pietra, dei metalli, degli stucchi, delle pitture murali e del legno. Con che spirito è il Consiglio d'Europa che ha voluto questo centro 40 anni fa? Qual è stato lo spirito che ha spinto, appunto, e ha voluto che fosse creato un centro del genere? Sì, il Consiglio d'Europa in quell'anno aveva piacere lasciare un segno, visto che si era concluso l'anno europeo della cultura, affinché Venezia avesse una scuola internazionale, visto che Venezia ha un grossissimo patrimonio architettonico. E quindi ha fatto nascere questa scuola che all'inizio arriva ai laboratori all'interno proprio della città, per poi trasferirsi nel 1984 all'isola di San Servolo, perché anche i restauratori europei potessero in qualche modo contribuire a salvaguardare questo patrimonio, che oggi continua a essere appunto salvaguardato, aprendosi anche un territorio più ampio. Qui siamo nella fascia pedemontana veneta, che è ricca di ville venete, è tanto vero che molti dei nostri corsi hanno cantieri proprio presso il patrimonio che il territorio qui ha, molte ville palladiane, ma anche altri palazzi. E tuttora vengono giovani da tutta Europa? Sì, diciamo che il corso funziona in questa maniera: ci sono dei paesi europei che mettono a disposizione delle borse di studio. Quest'anno, per esempio, la Federazione Svizzera e il Dipartimento della Cultura ha messo a disposizione due borse di studio, il Dipartimento dell'Istruzione e della Ricerca del governo tedesco ne ha messo a disposizione 10 e quest'anno per la prima volta ne mette 3 anche per dei maestri artigiani, e poi c'è la Camera di Commercio che, su proposta di Confartigianato Vicenza, ne ha messo a disposizione 3. Tra l'altro, proprio domani scade il termine per chi vuole usufruire di queste 3 borse di studio, che potrebbero essere appunto destinate a studenti e a restauratori italiani. Villafabris.eu è il sito per tutte le informazioni anche su questo bando? Sì, sì, www.villafabris.eu, potete vedere tutte le informazioni e il programma dell'attività proprio sul sito, oppure scrivere direttamente al centro europeo @villafabris.eu. Grazie Giuliani, buon lavoro. A tutti voi, grazie. Buon sabato. Europost-it. Global Campus Visual Contest. A tutti i fotografi e agli appassionati di fotografia. Finanziato dall'Unione Europea con il patrocinio del Centro di Informazione per le Nazioni Unite, torna il Global Campus Visual Contest. Concorso fotografico sul tema dei diritti umani. Il tema di quest'anno è Memoria e Riconciliazione. Fotografi e videomaker, professionisti o dilettanti, sono invitati a inviare foto e video sul tema, ispirandosi a spazi come memoriali, edifici istituzionali, movimenti di base che simboleggiano la memoria dei crimini contro l'umanità o violazioni dei diritti umani o la lotta di resistenza. Il bando scade il 9 settembre 2017. Tutte le modalità di partecipazione sono sul sito globalcampusvisualcontest.org. These accidents that happen follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak, I feel emotional. Landscapes, they pass on me. The little gets old and you push me up to this state of emergency. How beautiful to be state of La fotografia per offrire nuove visioni, nuovi scenari di questa Europa. Dopo questo il cuore del progetto fotografico Landscapes of Europe, Scenari d'Europa, è stato proposto e presentato un paio di settimane fa da Avellino, promosso dall'Associazione European Forum. Ne parliamo con Nicola Capolupo, che è referente del progetto stesso. Ciao Nicola, benvenuto all'Altra Europa. Salve, buongiorno a tutti. Allora, state molto attenti perché è un progetto che sta nascendo, dove ci si può ancora proporre per essere protagonisti attivi. Di cosa si tratta, Nicola? Allora, il progetto è stato ideato dall'Associazione European Forum, un'associazione culturale costituita da appassionati di politica, sviluppo, economia, Europa e soprattutto ambiente, territorio e turismo. Sì. Opera nel campo dell'europrogettazione, difatti noi nasciamo come europrogettisti, abbiamo collaborato con la comunità scientifica Business System Laboratory alla ideazione di alcuni progetti Erasmus Plus. Sì. E poi ci siamo aperti a tante altre progettualità, tra cui anche il progetto Landscapes of Europe. Di cosa che si mira tratta? A valorizzare sia dal punto di vista turistico ambientale che in ottica di sensibilizzazione ai valori europei, i paesaggi naturali e gli eventi d'Italia e d'Europa, con l'obiettivo finale di costruire una forte e condivisa identità paesaggistica e culturale europea, che è quello che secondo noi è un po' mancante rispetto a tanti altri paesi, perché se pensiamo agli Stati Uniti subito ci viene in mente lo Yosemite, le valli dello Yosemite, oppure se pensiamo all'Africa sicuramente penseremo alla riserva naturale del Masai Mara in Kenya, quando se pensiamo in Europa sicuramente molto meno penseremo alla conca di Draslov in Bulgaria, oppure sempre nelle parti più vicine a noi all'arco naturale, per chi è passato del Cilento, all'arco naturale di Palinuro. Quindi l'idea è proprio quella di creare una sorta di immaginario visivo condiviso di questa, europeo, di questa Europa, europeo. Come pensate di crearlo, questo grande catalogo delle emozioni, delle visioni europee? Sì, innanzitutto costituiremo una serie di gruppi di fotografi amatori, aspiranti, professionisti ed affermati, o anche solo esploratori ed amanti della natura, come è sottoscritto. Sì. E organizzeremo ogni domenica delle escursioni fotografiche in ogni territorio aderente all'iniziativa, per esplorare gli scenari naturali dei propri territori e promuoverlo a livello europeo. Chiaramente saremo supportati da un sito internet dove ogni utente potrà registrarsi e inserire le proprie categorie di scatti amatoriali, quindi anche fatti da cellulare, da compatte digitali, oppure scatti più professionali fatti da reflex, mirrorless, eccetera. Ovviamente la pubblicazione sul sito sarà filtrata da una serie di esperti che valuteranno le foto e faranno un po' da filtro e da vetrina del progetto. I canali social, sarà molto importante la collaborazione con cui stiamo stringendo, con gli Igers, la comunità di Instagrammers italiana. Nei vari territori chiaramente, e le pubblicazioni editoriali e i cataloghi che andremo a creare e poi presentare non solo nei vari territori e le varie associazioni, ma anche a livello istituzionale. Difatti promuoveremo una serie di mostre fotografiche, una serie di workshop e dibattiti sia online che offline. A tal proposito abbiamo già avuto la disponibilità non solo del Comune di Avellino, ma di altre varie regioni per poterli organizzare presso le loro sedi. È un forum di confronto e di discussione online sui luoghi e le tecniche utilizzate per gli scatti, in modo tale da poter far migliorare tutti gli aspiranti. Eh sì, avere anche una grammatica comune. Tutte le informazioni sul sito forumeuropa.it? Il sito in questo momento è in costruzione, ma sì, sarà europeanlandscapeofeurope.com. Ok, grazie, in bocca al lupo per questo progetto, insomma, che è veramente innovativo e propone visioni e scenari assolutamente interessanti. Ciao Nicola, buon lavoro. Grazie mille, buona giornata. Ci fermiamo un Europost-it e la pubblicità, poi ancora qua con l'Altra Europa. Europost-it. Mediterraneo in chiaroscuro. Inaugura al Museo di Palazzo Lanfranchi di Matera la mostra Mediterraneo in chiaroscuro, Ribera, Stomer e Mattia Preti da Valletta 2018 a Matera 2019, che mira a rafforzare lo scambio e il passaggio di testimone tra le due capitali europee della cultura. L'esposizione, precedentemente allestita alla Galleria di Arte Antica di Palazzo Barberini a Roma, giunge nella città dei Sassi con un nuovo progetto espositivo che fa dialogare le nove opere del Museo Muzza di Malta e i due dipinti delle Gallerie Nazionali d'Arte Antica con alcuni significativi dipinti della collezione del Rico, mettendo al centro una nuova idea di museo aperto e accessibile, luogo di produzione culturale e condivisione. Per tutte le informazioni, polomusealebasilicata.beniculturali.it. L'altra Europa. This is where I'll be, so heavenly, so come and dance with me, Michael. So sexy, I'm sexy, so come and dance with me, Michael. With Michael, so close now. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, @ Federico Taddia, Twitter e Facebook, lì potete trovare minuto per minuto tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando, oppure radio24.it, il nostro sito per riascoltare poi la puntata e scaricare il podcast. Parliamo adesso di un altro progetto europeo, un progetto importante, innovativo, attuale, contemporaneo, un progetto che si chiama Outsport contro l'omofobia e la transfobia nello sport. Ne parliamo con Rosario Coco, che è coordinatore del progetto per AIX, che è l'Associazione Italiana Cultura Sport. Buongiorno Rosario, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a tutti e tutte, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, un progetto, appunto, come dicevo, assolutamente contemporaneo e di cui c'è urgenza. Ce lo vuoi descrivere, di cosa si tratta? Qual è l'istanza di partenza? Sì, è un progetto che affronta un tema molto attuale, molto caldo, sul quale ci si sta man mano rendendo conto in Italia e in Europa. Allora, l'obiettivo principale innanzitutto è avviare una sistematica raccolta di informazioni, di dati. Il tema dell'omofobia è stato trattato ampiamente a livello europeo, dalle istituzioni, dal Parlamento, dalla Commissione. Quello che si cerca adesso di analizzare è l'impatto del fenomeno nel mondo sportivo. Nel mondo sportivo significa innanzitutto muoversi su due binari, capire che tipo di discriminazioni, di difficoltà ci sono per le persone LGBT nello sport, e capire anche come lo sport può essere viatico di inclusione in generale nei confronti della società. Stiamo parlando di sport nel senso di chi fa sport, giusto? Esatto, sì, parliamo di sport nel senso di chi fa sport, ma anche di organismi, quindi società sportive, federazioni e anche quei decisori politici che organizzano la pratica sportiva nei vari paesi. Il progetto include cinque paesi europei, l'Italia, che è capofila con AICS, Associazione Italiana Cultura e Sport, che opera da 60 anni, un ente di promozione, e poi la Scozia, la Germania con l'Università di Colonia, che svolgerà questa ricerca scientifica che è la prima in assoluto in Europa sul tema, Vienna con l'Istituto Internazionale per la Cooperazione e il Dialogo, e un'associazione ungherese che si chiama Frigo, che organizza appunto una serie di attività sportive a carattere inclusivo e che è una realtà di frontiera per chi si confronta con un regime, diciamo, alquanto repressivo, che in questi ultimi anni sta prendendo la piega una piega paragonabile a quella della Turchia o anche della Russia di Putin. Certo. Quindi anche questa è la lenta. Lo spogliatoio è luogo di discriminazione? Allora, lo spogliatoio innanzitutto è il luogo in cui si manifestano i principali stereotipi che sperimentiamo nella vita quotidiana. È uscito un report giusto per rimanere sul pezzo, questa settimana è stato presentato il rapporto della commissione Jocox di Laura Boldrini, sì. In cui si parla della piramide dell'odio. Non c'è al vertice c'è ci sono i crimini più efferati, l'omicidio, la violenza. Alla base ci stanno i pregiudizi che costituiscono l'humus. Mm-hmm. Allora, nello spogliatoio si verificano tutta una serie di situazioni, tra cui ci sono anche certamente episodi di violenti e di insulti fisici o verbali anche, però ci sono tutta una serie di atteggiamenti che portano a escludere, ad emarginare delle dinamiche di gruppo, delle dinamiche di branco, che in qualche modo fanno sì che molte persone evitino lo sport. Allora, sullo sport c'è un solo dato in Europa che risale al 2014, c'è l'indagine, viene dall'indagine della FRA, che è un organismo della Commissione Europea, dell'Agenzia Fondamentale per i Diritti Umani. Allora, sì, sostanzialmente su un campione di 90.000 persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, la metà ritiene che ci siano alcuni luoghi in cui non si può liberamente esprimere il proprio orientamento sessuale. Mm-hmm. In questo 50%, il 42% fa riferimento ai club sportivi. Questo è quindi sostanzialmente più di una persona su quattro. Certo, che comunque cela il proprio orientamento sessuale per paura di discriminazione. Esattamente. Poi c'è anche un altro studio che è il primo al mondo, che è stato fatto in Australia, e ha coinvolto Australia, Regno Unito e Stati Uniti, in cui sostanzialmente il dato è abbastanza paragonabile, perché si parla di almeno metà di un campione di 10.000 persone in queste tre realtà che ha subito nell'ambiente sportivo insulti, molestie fisiche o verbali. Quindi questo è il punto. Ovviamente noi partiamo dal presupposto che non si tratta di indagare un fenomeno di nicchia o comunque che riguarda una parte della popolazione, perché le persone omosessuali sono tra il 5 e il 10% della popolazione. Sì. Si tratta di indagare un fenomeno che colpisce tutti, perché certo. Noi parliamo di omofobia e transfobia in maniera per semplificare, ma in realtà si parla di discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e la identità di genere, che vuol dire? È il presupposto. Questo io discrimino sulla base dell'idea che ci sia un'idea di uomo e un'idea di donna. Banalmente, quando il ragazzino a 15 anni non riesce a tirare il pallone, uno degli insulti più comuni è femminuccia, oppure non lo diciamo proprio in diretta, ma FR e finisce con no. Quindi questo colpisce anche tanti etero, quindi è un pregiudizio. E questo è il vero cuore, quindi, del discorso. Quindi in quel punto, in questo modo si realizza un'analisi, si fa un discorso che riguarda tutti, riguarda un ambiente inclusivo e in cui ciascuno e ciascuna si può sentire più veramente a proprio agio. Grazie Rosario per averci illustrato quelle che sono le basi, insomma, gli obiettivi anche di questo progetto. Outsports.com è il sito per tutte le informazioni, oppure il sito. Scusami, è out-sport.eu. Ah, scusa, allora no, avevo un'indicazione errata io, quindi autodidattasport.eu. Stiamo ancora completando, ma okay. Ci sono già molte cose, sì. AICS.it invece è il sito dell'associazione, esatto, per chi volesse informazioni. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi, grazie. Ciao. Sunrise, what about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said were yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Stop to notice this crying at these weeping shores. Cambiamo argomento, ma è un altro progetto europeo presentato in questi giorni che ha colpito la nostra attenzione. La città metropolitana di Bologna ha scelto CESCOCOM, che è il centro studi avanzati sul consumo e la comunicazione dell'Università di Bologna, come referente scientifico di un progetto europeo Interreg Med. Si chiama Madre, questo progetto, ne parliamo con Stefano Spillare. Ciao Stefano, benvenuto all'Altra Europa. Sì, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Chi è? Cos'è Madre? Beh, allora, fondamentalmente Madre è ovviamente un acronimo. Certo. che sta per Metropolitan Agriculture for Developing an Innovative, Sustainable and Responsible Economy. Come hai detto giustamente, si tratta di un Interreg Med Europe che fa riferimento alla specifica area del Mediterraneo, quindi, e in particolare rientra nell'asse strategico 1 della strategia Interreg Med, che è relativa all'innovazione per la crescita sostenibile fondamentalmente. Più ancora nello specifico, lo scopo principale del progetto si riferisce allo sviluppo del network internazionale, quindi di un network internazionale, insomma transnazionale, sui settori chiave proprio dell'area del Mediterraneo, tra i quali nello specifico appunto il tema dell'agricoltura metropolitana, dell'agricoltura urbana e periurbana. Ma quindi stiamo parlando degli orti urbani, orti, i cosiddetti orti di città? Sì, non solo degli orti urbani, dei quali fra l'altro Bologna è molto ricca, insomma oltre 2700 se non sbaglio, non solo quindi dell'agricoltura in città, ma anche dell'agricoltura per così dire intorno alla città, dell'agricoltura che si scontra, ecco, per così dire, no, tradizionalmente con gli interessi urbanistici di ampliamento, di allargamento della città, quindi del rapporto urbano-rurale anche, dell'approvvigionamento, poi stiamo parlando appunto di temi come approvvigionamento alimentare da luoghi prossimi all'area urbana e quindi di, diciamo così, catena corta. Certo. Tanto per capirci. Ma Stefano, scusami, stiamo parlando di questi orti che conosciamo perché li vediamo, ma sono orti che al di là dell'hobby, al di là della passione, al di là anche della funzione sociale e aggregativa, hanno anche ricadute proprio sui temi dei consumi, sui temi della sostenibilità? Allora, io ritengo che ne abbiano sempre di più, nel senso che chiaramente l'orto urbano è anche una tradizione in qualche modo in Italia, volendo, risale il suo sviluppo ad esempio al periodo bellico, no? In cui assolutamente l'orto urbano era un luogo di approvvigionamento alimentare importante, perché chiaramente parliamo di un problema, di un periodo di crisi, no? Come quello bellico. Ma oggi comunque viviamo ugualmente una crisi economica, che quindi diciamo l'orto urbano può ritornare, come dicevi tu, ad essere luogo di socializzazione, perché anche questi aspetti sono importanti, sperimentazioni e sempre di più anche luogo di vera e propria produzione per il consumo urbano. D'altronde i consumi urbani stanno anche cambiando, sono consumi che ad esempio fanno ampio riferimento al biologico, no? Un settore in crescita di cui fra l'altro anch'io e il nostro centro di ricerca siamo occupati ampiamente, per esempio a Bologna in particolare le produzioni artigianali anche stanno prendendo sempre più piede, un progetto che sta per vedere la luce a brevissimo che è FICO, questo è l'Italy World ad esempio, è una specie di vetrina sull'orticoltura e le possibilità dell'agricoltura urbana, ma è esso stesso parte poi dell'agricoltura urbana, del progetto di agricoltura urbana di Bologna, perché comunque ha delle ampie aree ortive, è gestito dal Dipartimento di Agraria anche, e quindi io ritengo che sì, sempre di più questo aspetto anche di approvvigionamento alimentare andrà ad incidere nei consumi cittadini. È chiaro che quando parliamo di agricoltura urbana e periurbana è una necessità, è un argomento insomma che diventa centrale in paesi ad esempio in via di sviluppo, dove l'aumento demografico è galoppante, la concentrazione nelle città, la difficoltà di un approvvigionamento quindi alimentare nelle città o di un approvvigionamento di qualità diventa importante, quindi food security e food safety. È ovvio che nelle nostre città invece diventa magari più, come dicevi prima, anche una diciamo così, un connettore per alimentare socialità, anche aspetti sociali. Certo, sì, sì. E riflettere anche appunto sul consumo del territorio. Sulla sostenibilità, esatto. L'educazione a consumi sostenibili, chiaramente. Certo. Attraverso l'agricoltura anche sociale, dicevo, multifunzionalità agricola, no? Agricoltura sociale, altro grande tema che anche noi stiamo coltivando, diciamo così. Stefano, ricordiamo, oltre a Bologna, sì. Barcellona, Marsiglia, Montpellier, Salonico e Tirana, le città coinvolte con capofila Marsiglia, e vuoi darci un sito internet di riferimento del progetto, se c'è? Beh, in realtà è uno degli aspetti che il progetto deve realizzare. Okay. Questo network internazionale ha proprio come obiettivo la realizzazione, anche tra le altre cose, di una piattaforma stabile, il cui nome, l'ultimo incontro abbiamo fatto del meeting internazionale, il cui nome è ancora da decidere, riguarderà ovviamente qualcosa come Metropolitan, Mediterranean, Metropolitan Agriculture, qualcosa del genere, ma non è ancora deciso, e sarà il punto di riferimento appunto per l'agricoltura urbana e periurbana dell'area del Mediterraneo. Grazie, buon lavoro, buon sabato. Grazie a voi. Ci fermiamo in Europostit, il traffico, poi andiamo in viaggio per l'Europa a bordo di un ciao. Europostit. Bandi Europa per i cittadini. Resteranno aperte fino al 1 settembre le candidature della seconda deadline per le misure gemellaggi di città e reti di città del programma Europa per i cittadini 2014-2020, che ha l'obiettivo di avvicinare i cittadini europei all'Unione e di colmare le distanze con le istituzioni. Possono partecipare ONG, autorità locali, istituti scolastici e reti di volontariato, con progetti che promuovano la partecipazione civica al processo decisionale dell'Unione Europea e consentire la cooperazione e lo scambio di buone pratiche. Per tutte le informazioni, europacittadini.it. Monge, crocchette super premium per cani e gatti con carne fresca e pochi cereali. Vi presenta... L'altra Europa. Veste truccate, anni 60, girano in centro, sfiorando i 90. Rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro attaccata una targa. Dammi una specie all'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Sbagliatissima questa canzone, però insomma dà il giusto ritmo, ma non è una Vespa, è un ciao, non sono i colli bolognesi i protagonisti, ma è tutta l'Europa, è un'impresa quella che stanno compiendo due fratelli, Lorenzo e Mattia Baiocchi, 23 e 21 anni, di Savignano, quindi siamo in Romagna, che hanno scelto di attraversare l'Europa, sì, camminare per 9.000 chilometri e farlo a bordo di due mitici ciao. Con noi c'è Mattia, credo siano in Germania in questi giorni. Ciao, ciao Mattia, eccoti qua. Scusa. Ciao, sì, siamo in Germania, più precisamente a Ains, si dovrebbe chiamare la città, Mainz, vicino al fiume Reno. Mattia, ma intanto voi siete giovanissimi, come avete... Sì. Cioè il ciao non dovrebbe far parte del vostro immaginario, come avete conosciuto il ciao come il motorino? Ciao. Allora, io già da quando ero piccolo mi è sempre piaciuta la meccanica e così i motori o le macchine d'epoca anche. Mm-hmm. E abbiamo scelto proprio il ciao perché ci piace proprio come mezzo, in più è molto facile da riparare. Mi sento sicuro, diciamo, a bordo del quindi il nostro è il secondo modello, addirittura quello senza il variatore, quindi proprio a fare, come dicevi prima, i colli bolognesi. Noi abbiamo fatto il Brennero e abbiamo fatto tutti quei passi lì, insomma, il passo Pennance per esempio, o in Austria anche le montagne dell'Austria, quindi è stata parecchio dura. Ha resistito, però, hanno resistito perfettamente. L'unico problema che ci hanno dato per adesso è stato un condensatore e un cerchio, che abbiamo preso una buca di quattro dita, sì. E ci si è rotti, insomma. Scusa, però se siamo riusciti a ricambiarlo. Cioè, se si rompe un cerchio del ciao, dove si va? In ferramenta, da un meccanico, da un antiquario, dove si va? è stato un gran problema per noi, tra virgolette. Eravamo a Verona in quel momento e abbiamo chiesto un po' in giro in diversi negozi, abbiamo provato a cercare un po' in internet se c'era qualcuno che potesse averlo, e abbiamo girato parecchi negozi e in tutti ci dicevano no. A un certo punto abbiamo incontrato un signore che ci ha chiesto da dove venivamo, appunto, perché vedendo i ciao tutti pieni di borse gli è venuta questa domanda. Era un signore con una Vespa e mi è venuto a me di fare la domanda a lui per sentire se magari sapeva dove potevamo trovare un cerchio. Ha indirizzato in un negozio e proprio in quel negozio abbiamo trovato. Fantastico. È stato proprio una botta di fortuna, diciamo. Mattia, allora 9000 chilometri con il ciao, che sì, oltre a essere questo motorino mitico, ciao è anche forse una delle parole italiane più famose nel mondo. Come mai avete scelto, avete scelto di partire per attraversare l'Europa? Allora, abbiamo deciso di partire comunque per vedere un po' com'è fuori dall'Italia, ecco, vedere i modi di pensare differenti della gente, le lingue diverse, imparare un po', dai, anche a conoscere gente diversa, ecco, certo. Uscire un po' dalla routine quotidiana. E sarà un viaggio lento, così. Sarà un viaggio lento, no? Perché sarà il ciao... un viaggio veramente, veramente molto lento, anche perché il cilindro è quello originale, il 50. Ho cercato di mantenere il più originale possibile per dare appunto anche un valore, tra virgolette, storico a questo viaggio, ecco. Mm-hmm. Quindi avete già assaggiato l'oltre confine, avete fatto prima l'Austria, adesso siete in Germania. Sì. Con che occhi vi guardano passare per le strade europee? Tutti quanti quando passiamo ci guardano la targa, quello tutti, perché dai, è un mezzo che qua si vede poco, insomma, penso e credo, abbiamo visto anche pochi cinquantini diversi anche dal ciao, ecco. E in più la maggior parte della gente suona o magari ci salutano, anche i motociclisti quando passano fanno la stessa cosa. Dai, ci dà una certa soddisfazione, insomma, far vedere che abbiamo fatto già parecchi chilometri e che ancora dobbiamo farne. Infatti, allora, si può viaggiare insieme a voi attraverso la pagina Facebook e Giro sì, d'Europa in Sella? Abbiamo fatto la pagina Facebook e l'abbiamo chiamata Con un'Italia Così, ciao. Che quindi ciao, appunto, per il motorino. Qui non è una fuga dall'Italia il vostro? È una... diciamo che è una fuga dalla routine quotidiana, ecco. Ok, quindi è una parentesi, è una che vi siete presi. Routine quotidiana. Ok. Qual è l'itinerario e le prossime settimane? Allora, dove andrete? Le prossime fermate, adesso stiamo attraversando, appunto, abbiamo passato a Francoforte, andiamo verso Colonia, poi arriveremo in Olanda e dall'Olanda torneremo in giù, però passando dal Belgio, Francia, Spagna e Marocco. Ah, quindi fate dove anche... In Marocco ci aspetta comunque un nostro amico che saluto, Zaccaria, dovrebbe stare ad ascoltare anche lui la televisione adesso, cioè la radio adesso, insomma. E dopo ci farà lui da guida turistica, ecco. Insomma, fate anche una toccata extraeuropea. Una toccata anche in Marocco, proprio extraeuropea anche, sì. Grazie. E poi tornare comunque indietro, sempre dalle coste spagnola, dalla costa spagnola, dalla costa francese, passando dalle Alpi. Grande, insomma, sperando che i ciao reggano, ma insomma... Reggano. Abbiamo... Vabbè, comunque siamo preparati a tutto, abbiamo portato anche un motore di ricambio, tutti i pezzi, gomme, di tutto e di più. Siamo preparati a tutto. Grande Mattia, grande Lorenzo, grazie per questa testimonianza, buon viaggio, buona Europa. Grazie a te, anzi. Che dire, ciao. Grazie mille. Ciao. Ciao, buona giornata. E con questo ciao e con questo grazie, va anche a tutti voi per essere stati in nostra compagnia anche oggi, penultima puntata dell'Altra Europa. Un grazie a tutta la squadra, Silvia Righini, Miriam Lucchetti, Valentina Ternullo che con me hanno scritto la puntata, oggi in assistenza Giuseppe e Fabio, alla parte tecnica invece Carmelo Lauricella che come sempre ha giocato con i tasti. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'altra Europa.